Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per l'appuntamento 385? Mamma mia, quanti ne abbiamo fatti, Francesco. Qui su Radio 24, buona domenica a tutti da Gegè Telesforo e buona domenica a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Buona domenica anche a Silvia Barba, che ci sta sicuramente ascoltando, assente, non è presente nel Groove Master Studio perché costipata, ma questa sera con il nostro Airplay saremo un po' la sua tachipirina. Ti piace sì, questa? Sì, sicuramente saremo una botta di energia. Una botta di energia, vitamina C, proprio come... che ne so, una bella spremuta di arance siciliane. Abbiamo fatto qualche sera fa con Francesco una disquisizione su le ragazze. Sì. Parlavamo di ragazze, naturalmente parlavamo di ragazze, ma a livello artistico, no? A livello musicale. A livello musicale, e quindi abbiamo iniziato a fare una selezione, un elenco più che altro fra le voci più belle, ma anche quelle che nell'ultimo periodo, quello recente, hanno segnato in parte l'airplay del nostro soundcheck, ma anche le ragazze sulle quali noi puntiamo il nostro riflettore per il futuro. Sì, diciamo che in alcuni casi coincidono le cose anche, diciamo, bellezza e bravura. Questo è un aspetto che io non ho molto considerato, però noto con piacere che tu stai ancora molto attento a questo. Va considerato anche quello. Vuol dire che il livello di testosterone gira, tromba. Vabbè, quando vedi gira, gira. Le foto su Instagram, su Facebook. Mamma mia, capita, ti accontenti di poco però, eh? No, siamo a livello di postal market qui. Vabbè, allora partiamo subito. Guarda, se mi fai entrare in argomento, io poi non so dove vado a finire. No, evitiamo. È domenica, cerchiamo, finiamo la settimana in maniera elegante. Allora, Shaina Steele può entrare in questo elenco di brave ragazze? Assolutamente sì. Che voce, questa ragazza completa artisticamente, perché viene dal musical, ha frequentato la chiesa e si sente perché c'ha quella venatura gospel e soul, conosce gli standard di jazz, è poi una musicista al 100%. Si può cantare veramente di tutto. Tra l'altro stiamo aspettando il suo nuovo disco, l'ha annunciato sul suo sito, però ancora non si sa né come si chiama né quando uscirà, ci sono solo delle preview. Sai che faccio? Posso contattarla e vedere se ha qualche anticipazione da farci, mandarci magari un singolo. Visto, non è anche tua compagna di scuderia? È compagna di scuderia perché lavoriamo per la Rope Dope. Quindi magari Ma non è la mia compagna nella vita, perché è sposata. È sposata e c'ha anche un bambino. È sposata anche con un bravissimo pianista. Bene, Shaina Steele al soundcheck con Paper Bag, questo è un vecchio successo di Fiona Apple, ma recuperato con il contrabbasso strepitoso di Christian McBride. La voce educatissima di Shaina Steele in Paper Bag di Fiona Apple, il contrabbasso, quello di Christian McBride, che swing, che soul, c'è tutto in un brano così carino, proposto soltanto da voce contrabbasso e le spazzole della batteria, vedi? Poi non c'è bisogno di un grande impianto orchestrale per fare scalpore. Sì, quando la base è molto buona, la semplicità in realtà è sempre meglio. Ecco, un'altra artista che a noi è piaciuta è questa Erin Allen Kane, non molto conosciuta da noi, ma questa ragazza canta e scrive anche bella musica. Sì, è giovanissima, c'ha poco più di 20 anni, è stata scoperta ovviamente da Prince, nel senso che lei aveva pubblicato questo suo pezzo a cappella, Prince la intercettò, vide questo video e pubblicò sul suo profilo Twitter un commento, e poi arrivò la chiamata. Perché, come sappiamo bene, ogni tanto Prince chiama, un po' come fa il Papa. E ha iniziato a collaborare Prince aveva già scritto una canzone, Baltimore, che abbiamo anche ascoltato qui al soundcheck, che parlava appunto di tutti gli episodi di violenza che erano stati perpetrati contro i neri afroamericani da parte della polizia, e per quella canzone vedeva benissimo la voce di Erin Allen Kane. che qui ascoltiamo in una sua composizione originale intitolata Piano Song, brano che è stato quotato da soultracks.com come una delle composizioni più belle della passata stagione. Soundcheck. Il suono della musica. E fra le brave ragazze di questo soundcheck qui su Radio 24 non potevamo non ricordare anche il talento di Laura Mvula con il suo successo Green Garden, ma nella versione realizzata poco tempo fa, un anno fa, con la Metropole Orchestra, quindi impianto orchestrale per Laura Mvula, un grandissimo successo, un successo strepitoso e straripante in pochissimo tempo per lei. Sì, tra l'altro ai discografici in ascolto, se siete interessati, lei è stata scaricata dalla sua casa discografica, non si sa bene chi ha scaricato chi, però appunto è disponibile, quindi se siete interessati. Perché lei ha realizzato l'album per una etichetta indipendente, poi con un contratto di distribuzione internazionale con la Sony. Eh sì, poi ha fatto questo secondo disco con la Sony, però a quanto pare non è andata proprio benissimo. Quindi... Ecco perché allora, è qui che nascono i problemi, sempre per un fatto numerico, no? Perché quando poi hai successo le multinazionali pretendono ancora più successo. Beh, forse non so se è solo una questione di numeri, si dice che lei abbia un carattere un po' particolare, però non ti so confermare queste voci. Come piacciono a te, no? Queste ragazze al peperoncino. Tra l'altro anche di lei possiamo dire che assolutamente in questo caso coincidono bellezza e bravura. Assolutamente sì, fatto sta che è considerata una puledra da corsa della discografia e della musica inglese. È una delle voci assolutamente più interessanti che esista in questo momento, secondo me. Artista, vabbè, poi è un'artista completa, scrive, suona il pianoforte, ha insegnato musica, non so se ha ancora il tempo per insegnare, non credo. Non credo proprio. Non credo. E comunque, insieme a Laura Mvula, lì in Inghilterra c'è un'altra bella signorina, forse una delle tue preferite, che adesso sta ottenendo grandi consensi in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. A volte per gli inglesi non è facile. Sì, sta facendo il tour di supporto a tanti artisti, anche ai Coldplay per dirne per dire i più grossi, e quindi ha girato il mondo in lungo e in largo in questi mesi, in questi anni, e stiamo aspettando, io aspetto almeno personalmente, un nuovo lavoro, perché ogni cosa che fa a me piace tantissimo. Eccola, e noi la aspettiamo anche al soundcheck di Radio 24, magari, saresti magari felice. E lei è la bellissima e bravissima Lian La Havas con Unstoppable. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E caro Francesco, non so se riusciremo a intervistare qui nel Groove Master Studio Lian La Havas, ma ti assicuro che Joanna Titters sarà con noi, e sarà con noi per una ventina di giorni, perché stiamo per partire in tournée insieme. Quindi qui Mad Satta con la voce di Joanna Titters, talento incredibile, diplomata al Berklee College of Music lì a Boston, residente a Brooklyn, New York City, qui interpreta un brano bellissimo intitolato Oh Lord. Sei pronto per incontrare? Sì, sono abbastanza elettrizzato da questo incontro. Anch'io sono felice di avere Joanna nella band per supportare il tour di Funslow Ride e anche il progetto Sounds for Children, e stiamo per partire, insomma c'è ancora un po' di tempo, dobbiamo attendere ancora un po', ma presto arriverà il 29 di marzo con il primo concerto al Bad King Club di Perugia, poi il 30 di marzo a Roseto degli Abruzzi, quindi Pescara, a Villa Parma, Cava dei Tirreni, il Moro Jazz Club il 31, il 1 di aprile a Mattinata Auditorium Mad Mall lì in provincia di Foggia. Sono felice perché ci saranno un sacco di amici e anche qualche parente che verrà a trovarmi. Poi abbiamo due giorni per riprendere fiato, tornare a Roma e affrontare la platea della Sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 6 aprile confermato anche il Bravo Caffè di Bologna, 7 aprile il Torrione Jazz Club a Ferrara, e chiudiamo dove? al Blue Note di Milano l'8 di aprile, quindi in 3 giorni ti fai praticamente i storici jazz club d'Italia. No, la cosa bella è la cosa che ho chiesto al management è di portarci in giro fra jazz club e teatri e locali importanti, perché vogliamo portare la nostra musica e in modo particolare il messaggio di Sounds for Children, questo progetto che stiamo facendo per UNICEF, un po' a tutti. Ed è quello che faremo, quindi sono molto emozionato, la band è molto forte, il repertorio è quello di Fun Slow Ride, la voce solista con me sarà quella di Joanna Titters, quindi vi aspettiamo. Sì, poi nell'ambiente un po' più ristretto dei jazz club comunque l'atmosfera è sempre magica. Beh, tu vuoi venire con me? Magari. Ti vuoi fare tutto il tour? Sì. Prepara lo zainetto e andiamo. Con chi chiudiamo, tromba? Con gli Hiatus Kaiote. E la voce è quella di Ney Palma, anche lei è una brava ragazza. Sì, che forse non ha più un centimetro di pelle libero da un tatuaggio o da un piercing. Senti, dimmi una cosa, ti fidanzeresti con Ney Palma? Beh, non lo so, mi inquieta ogni tanto. Vabbè, direi che potremmo andare a cena però con lei. Anche lei è una bella ragazza, però è un po' strana. È un po' strana, pure tu mica sei così normale. No, quello non è credere. Bello. Allora, Hiatus Kaiote con Ney Palma, il brano si intitola Fingerprints. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo qui su Radio 24, 19:15, con tanta nuova musica, ma anche mercoledì ci saremo a Variazioni su tema su Rai 5 alle 21:15. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Grazie a te.